Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sono stati arrestati 6 presunti jihadisti, secondo gli inquirenti. C'era anche chi progettava attentati in Italia. 2 di loro con i figli volevano andare in Siria o in Iraq per unirsi con l'ISIS. Inizia oggi, ma le prove andranno avanti per tutto il mese, il concorso della scuola, 63.000 posti, ma i candidati sono 3 volte tanti. Voci di irregolarità, il ministero smentisce, nel frattempo i sindacati proclamano uno sciopero generale della scuola e la ministra Giannini protesta, dice singolare che si faccia proprio oggi. Oggi l'incontro tra il ministro Alfano e l'omologo austriaco cresce la preoccupazione per la prospettata chiusura delle frontiere. Il Brennero come una nuova Idomeni? No, siamo pronti, ci dice il presidente della provincia di Bolzano. Mattarella interviene sui tempi dei processi e corruzione, accelera intanto in Parlamento la riforma della prescrizione, ma non c'è accordo nella maggioranza, dice il nuovo centrodestra. Aperte 2 procedure di infrazione per l'Italia, la prima sulla gestione delle scorie radioattive, la seconda sui limiti posti alla sperimentazione animale. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e se volete c'è il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, per avere qualche anticipazione sulla trasmissione mentre ci lavoriamo la mattina. In apertura dunque l'operazione antiterrorismo di questa mattina. Cristina Carpinelli, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, una vera e propria scuola per reclutare dall'estero nuovi combattenti, un luogo in cui si entra grazie a una raccomandazione nell'ISI del 2016, si entra dunque solo se fidati, e le 6 persone fermate oggi erano tra questi. 4 fermati sono stati raggiunti dal provvedimento di custodia cautelare in Italia, tra loro anche una famiglia con 2 bambini affidati ora ai nonni e 2 già in Siria. A tenere la conferenza di questa mattina che abbiamo seguito a Palazzo di Giustizia a Milano, il procuratore nazionale antiterrorismo e antimafia Robecchi, che racconta di indagini importanti sviluppate grazie alla collaborazione di polizia e carabinieri, un'inchiesta in cui emergono comunicazioni dall'Italia alla Siria, in cui si fa riferimento ad attacchi singoli a uomini bomba, lupi solitari, dice il procuratore aggiunto Romanelli, una serie di comunicazioni in cui si parla, raccontano gli inquirenti, di obiettivi, e si parlerebbe anche di Roma. Comunicavano attraverso WhatsApp con messaggi audio. Comunicavano cosa? Questo è un altro elemento importante, lo ha sottolineato Robecchi, procuratore antiterrorismo, procuratore nazionale antiterrorismo. I generali dell'ISIS infatti chiedevano ai loro contatti di non partire ma di organizzarsi per agire con attacchi in Italia. Sentiamo Robecchi. I Quraici dal territorio di guerra non solo dà il via libera a questo accreditamento che è stato chiesto, ma chiede espressamente alla persona di effettuare attentati nel territorio dello Stato italiano. Ecco, questo è un profilo di novità, perché si tratta non di un'indicazione generica che viene data, ma un'indicazione che viene data ad una persona specifica che viene invitata a procedere nel territorio dello Stato italiano. Non ci sono in questa inchiesta legami con la Francia e il Belgio, resta però la fotografia di un sistema strutturato che si muove sfruttando canali fidati. Altro elemento, e poi chiudo, il fatto che polizia e carabinieri hanno avuto tutta la collaborazione possibile da parte dei centri islamici in Italia. Ed è tutto, a te la linea. E grazie a Cristina Carpinelli per questo aggiornamento. Veniamo alla questione del Brennero, che abbiamo già ampiamente affrontato ieri e che torneremo ad affrontare oggi e più avanti nel corso della trasmissione. Oggi il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha espresso preoccupazione e ha fatto sapere che su questo tema vedrà il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Questa mattina, a 24 mattino, è intervenuto il Sottosegretario all'Interno, Domenico Mansione, il quale sostiene che questa barriera non bloccherà i flussi ma creerà danni economici. La barriera attraversa l'autostrada e la stazione ferroviaria su un confine che è di 440 chilometri e si occupa di poche centinaia di metri, quindi è assai probabile che serva poco per bloccare i flussi e serva molto per dare un certo tipo di immagine e soprattutto per rendere più problematico il flusso di quelli che attraversano l'autostrada e le ferrovie. Appunto. Quindi danni economici assai significativi, contenimento dei flussi assai vicino allo zero. Sicuramente dei controlli Schengen li autorizza, perché sono previsti e ci sono già 9 stati in Europa che li fanno. Iniziative ulteriori chiaramente si potrebbero addirittura fuori dal dal trattato, quindi mi sembrano del tutto impraticabili. Il rischio sanzioni c'è. Insomma. Sì, il rischio sanzioni c'è. E di questo torneremo a parlare più avanti, avremo anche un focus e ci concentreremo sui danni che prospetta l'autotrasporto da questa barriera. Parleremo anche con il presidente della provincia di Bolzano, Compace, come già vi dicevamo nei titoli, gli abbiamo chiesto tra l'altro se il Brennero rischia di diventare una nuova Idomeni. E di oltre 30 civili uccisi intanto, tra cui donne e bambini, il bilancio provvisorio dei raid governativi siriani su un ospedale ad Aleppo gestito da Medici Senza Frontiere, lo riferisce l'Aleppo Media Center, una piattaforma di giornalisti e fotoreporter dei quartieri della città da 6 giorni sotto il fuoco delle bombe del regime di Damasco. Le fonti affermano che il raid ha colpito anche abitazioni nel quartiere di Succari, dove sorgeva l'ospedale Al-Quds. Questo è quello che sappiamo al momento. Passiamo alla politica intanto, con il dibattito che continua a concentrarsi sulla giustizia. Da Firenze il presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare di giustizia e lancia un nuovo monito sulla corruzione. È un male gravissimo della nostra società e per combatterla è necessario un impegno di sistema, un'alleanza di tutte le forze sane del paese, dice il capo dello Stato, che parlando all'inaugurazione della Scuola Superiore della Magistratura sottolinea come la corruzione fra i politici sia ancora più grave. Gli attori della politica, per la loro parte, devono aggiungervi la consapevolezza che la corruzione in quell'ambito è più grave, perché nell'impegno politico si assume un duplice dovere di onestà per se stessi e per i cittadini che si rappresentano. Al Senato nel frattempo la maggioranza prova ad accelerare sulla prescrizione, ma non c'è ancora un accordo fra PD e Nuovo Centrodestra. Il partito di Alfano frena sulla proposta dei democratici che prevede un aumento dei tempi di prescrizione proprio per i reati di corruzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Inizia oggi, ma andrà avanti per un mese, il concorso della scuola. Maria Piera Ceci, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, la convocazione era per questa mattina alle 8, si è partiti con la prova scritta per chi vuole insegnare storia dell'arte, scienze, tecnologie, tecniche agrarie, laboratori di liuteria. Seconda convocazione poi nel pomeriggio, ma le prove, come hai detto, andranno avanti fino al 31 maggio. Oggi in tutto saranno più di 1900 i candidati alla prova su 165.000 domande arrivate, 63.000 invece i posti disponibili. Ma come è andata, come sta andando, ce lo raccontano i candidati appena usciti dalla prova, li sentiamo nelle interviste raccolte da Edoardo Sirignano a Milano. Ci sono da modificare la 107 per le due questioni che sono sbagliate, il bonus. Allora fermiamoci un attimo, abbiamo mandato il file sbagliato, vediamo se riusciamo a sentire le voci che ha raccolto Edoardo Sirignano, via. Com'è andata la prova? Ma la prova spero sia andata bene, le domande sono un po' diverse da quelle che erano state pensate e indicate nei siti che si sono occupati del concorso. Le domande in lingua straniera erano difficili? Ma abbastanza. Dunque è stata una prova molto faticosa perché arriviamo dopo un percorso di formazione che dura da anni. E concentrare tutto in un'ora, in 2 ore e mezza così davanti a un terminale ci sembra veramente riduttivo e ci troviamo a dover rischiare tutto in un gioco a premi. Ma spero bene che sia andata bene, insomma, abbastanza complessa, soprattutto dal punto di vista del tempo, che era veramente poco per una prova fatta comunque al computer. Dunque a Milano tutto bene, ma a giudicare da quanto gira sul web si parla di carabinieri chiamati in varie sedi per irregolarità nelle commissioni, in particolare la Lega Nord dice che a Palermo i commissari sono stati sostituiti dai bidelli, sappiamo che quello dei commissari è stato un po' il problema dell'organizzazione. Da parte sua comunque il Ministero dell'Istruzione smentisce che ci siano stati problemi. Intanto questa mattina i sindacati della scuola, proprio nel giorno del concorso, sono scesi in piazza a Roma e hanno proclamato lo sciopero generale della categoria per il 23 maggio. Per la cronaca si tratta di un lunedì, che è una cosa sempre un po' antipatica quando si indice uno sciopero. Comunque i sindacati contestano sì il concorso perché dicono che decine di migliaia di docenti sarebbero rimasti fuori e si tratta soprattutto di laureati non abilitati che però sono in cattedra da anni e che saranno ancora impiegati a tempo determinato perché anche questo concorso non assicurerà la totale copertura delle cattedre. Ma lo sciopero non è in particolare contro il concorso, ce lo spiega Pino Turi, segretario della UIL Scuola, l'abbiamo sentito poco fa. Ci sono da modificare la 107 per le due questioni che sono sbagliate, il bonus ai docenti che va contrattualizzato, e la scelta diretta da parte del dirigente e dei docenti, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poi dopodiché c'è l'apertura del contratto nazionale. Mi pare che ci siano tutti gli elementi per poter dire che la scuola ha esaurito la pazienza. Questo è il quadro dunque dal concorsone della scuola, vedremo come procederà nei prossimi giorni. Noi ci spostiamo all'inchiesta di Napoli che ha toccato anche il presidente del PD in Campania, Graziano, indagato per concorso esterno in associazione camorristica, un'inchiesta che pare destinata ad allargarsi. Roberto Galullo del Sole 24 Ore, buongiorno Roberto, in che direzione? Buongiorno a te radioascoltatori. Ma nella direzione che ormai da quasi un anno sta seguendo la Procura distrettuale antimafia di Napoli, vale a dire la scoperta e la ricerca approfondita con investigazione di un sistema, quello che ruota o ruoterebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, intorno a Palazzo Tetima Fuccini di Santa Maria Capua Vetere, in realtà sarebbe soltanto la punta di un iceberg, di un sistema ben rodato, intorno al quale siedono professionisti o siederebbero professionisti, politici e imprenditori per spartirsi gli appalti, con un ruolo compiacente, almeno questo è quanto sta emergendo ed è quanto scritto oggi sul Sole 24 Ore, delle commissioni di gara, che sono un pochettino il punto nodale centrale per poter poi permettere proprio la spartizione dei lavori degli appalti. È prevedibile quindi, Roberto, che l'inchiesta non finisca qua, ma ci siano, magari non a brevissimo, ma forse sì, altri indagati? Ma questo è presto per dirlo. Di certo, ma perché sono gli stessi investigatori a dichiararlo e gli inquirenti che lo premettono, di certo ci sono altre posizioni al vaglio degli inquirenti. Ripeto, non è un'indagine che nasce oggi. Come dire, ai riflettori accesi in tutta Italia anche per un nome tra virgolette eccellente, ma è un'inchiesta che nasce alcuni mesi fa e che sul territorio era già conosciuta quanto proprio ai possibili sviluppi che poteva avere. Ti ringrazio, grazie a Roberto Galullo del Sole 24 Ore, il suo servizio, il suo pezzo più dettagliato lo trovate sul quotidiano Oggi in Edicola. Torniamo a parlare, lo abbiamo già accennato ieri, di questa ipotesi del Milan acquisito dai cinesi, da Alibaba, ovviamente la parola sta a Berlusconi. Ancora una volta l'ultima parola spetterà a lui. Il Milan, si sa, è il grande amore di Silvio Berlusconi. Ma dalla parola che il presidentissimo dirà in questi giorni dipenderà il futuro di questo rapporto. Dire sì agli investitori cinesi, a quella cordata che ha in Jack Ma, il creatore del colosso dell'e-commerce Alibaba, la propria punta di diamante, oppure rifiutare e rimanere alla guida di un Milan dal presente opaco e dal futuro incerto, dopo il tanto glorioso passato? I cinesi metterebbero sul piatto circa 500 milioni per rilevare il club, oltre ad affidare all'ex CT campione del mondo Marcello Lippi, che ha guidato con successo anche il Guangzhou Evergrande, team di cui Jack Ma è comproprietario, il ruolo di direttore tecnico. La nuova cordata potrebbe poi acquisire subito il 70% del club e magari tra un anno il restante 30%. Ma la vera domanda è sempre quella. Sarà disposto Berlusconi a rinunciare al suo amore più grande? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuove indiscrezioni di stampa sulla morte di Prince. Mentre in tutto il mondo continuano i tributi musicali a Prince, in attesa dei risultati definitivi dell'autopsia spuntano nuove ipotesi sulle cause della sua morte, avvenuta nella sua residenza vicino a Minneapolis il 21 aprile scorso a soli 57 anni. Dopo le prime voci che lo davano morto a causa delle complicazioni di un'influenza e dopo quelle di un'overdose da antidolorifici oppiacei, nelle ultime ore si sta diffondendo l'ipotesi che Prince sia morto perché malato di AIDS. Secondo le indiscrezioni raccolte dal National Enquirer, da una fonte anonima, Prince era in cattive condizioni di salute e si preparava a morire. Avrebbe contratto l'HIV nei primi anni 90, pagando lo scotto di una disinvolta promiscuità sessuale. Le sue condizioni di sieropositivo si sarebbero mantenute per anni fino al tracollo degli ultimi mesi. Prince avrebbe tra l'altro rifiutato alcune terapie in quanto testimone di Geova. «Dio può curarmi e mi guarirà», avrebbe detto il musicista. Era totalmente carente di ferro e spesso molto debole e disorientato. Mangiava poco e non riusciva a trattenere il cibo. pesava appena 40 kg e la malattia avrebbe aggravato una situazione economica già molto difficile, costringendolo a tornare sulle scene. Si spiega perché, nonostante condizioni fisiche ormai al limite, avesse accettato di fare un impegnativo tour in Australia nel febbraio scorso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi torniamo a parlare di Brennero subito dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'arresto di 6 presunti jihadisti che a quanto pare alcuni di loro avevano anche intenzione di colpire in Italia. Abbiamo parlato del concorsone della scuola che ha preso il via oggi. Abbiamo parlato di giustizia perché è intervenuto il presidente Mattarella mentre il governo cerca di accelerare sulla riforma della prescrizione. Abbiamo parlato anche di Prince. Abbiamo parlato del Milan, adesso torniamo ad occuparci del Brennero e lo facciamo innanzitutto con un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con il presidente della provincia di Bolzano, Arno Compacere, al quale abbiamo anche chiesto tra l'altro se non rischiasse il Brennero nel momento nel quale l'Austria dovesse procedere di diventare una sorta di Idomeni. Ora sono annunci anche perché sono riuscito a far spostare l'avvio dei lavori perché era ben programmato già per ieri, però sono riuscito a convincere il ministro Sobotka a volersi incontrare prima col ministro Alfano prima di iniziare qualsiasi attività anche preparatoria per questi reticolati che sono previsti, no? Questo mi è stato concesso. Oggi ci sarà l'incontro a Roma tra il ministro degli interni Sobotka e Alfano e poi si vedrà. Qual è la sua valutazione su quello che sta facendo l'Austria? Beh, bisogna dire che l'Austria sicuramente ha fatto moltissimo negli ultimi mesi. L'Austria ha accolto più di 90.000 richiedenti asilo, cioè se questo se la stessa cosa avesse fatto l'Italia sarebbe stato più di 600.000 rapportato al numero di cittadini, però io credo che questo adesso sia sicuramente la ricetta sbagliata. Adesso basta con azioni unilaterali di singoli stati, ci vuole una azione condivisa di tutta l'Europa, degli stati europei, perché con le recinzioni, con i muri, non si risolve nessun problema, anzi si sposta semmai. Lei vede il rischio, se l'Austria proseguisse, che si crei una nuova Idomeni, per così dire, al confine, al Brennero? No, una nuova Idomeni no, già per un motivo, perché noi ovviamente ci stiamo preparando per poter assistere le persone nel caso in cui si dovessero dover fermare per i controlli austriaci. Stiamo mettendo a disposizione dei capannoni industriali, abbiamo individuate delle postazioni per eventuali tendopoli e altro, abbiamo già allertato la nostra protezione civile e quant'altro, però questo solo per essere preparati a qualsiasi eventualità. Io confido comunque nella responsabilità anche del governo austriaco e comunque di tutti gli stati coinvolti adesso, che ci sarà sicuramente ancora spazio per trovare soluzioni alternative, anche perché attualmente non c'è nessuna emergenza. Così dunque il presidente della provincia di Bolzano, ed è proprio con Bolzano che andiamo a collegarci per fare un punto soprattutto su quelle che sono le preoccupazioni del settore dell'autotrasporto e della logistica. Lo facciamo con Andrea Ferro che si trova là e che ieri tra l'altro ha seguito anche la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che vuole prendere l'Austria. Andrea, buongiorno. Buongiorno Simone da Bolzano, vi parlo da Piazza Walter, il cuore della città. Per un incrocio di coincidenze oggi a pochi passi da qui si parla del futuro del Brennero, mentre invece ora è il passato destinato a ritornare con le barriere e i controlli. Il futuro del Brennero è il tema di questo convegno, è il tunnel ferroviario che tra 10 anni accorcerà le distanze tra l'Italia e l'Europa e sarà la galleria ferroviaria più lunga del mondo. Transiteranno uomini e soprattutto proprio in queste ore, come dicevi, cresce la preoccupazione del mondo dei trasporti e della logistica per le conseguenze del piano austriaco. Il Brennero è un passaggio cruciale, i numeri, giusto per rendere l'idea, da qui ogni anno passano 2 milioni di tir, degli 89 milioni di tonnellate di merci che transitano ogni anno lungo i nostri confini alpini sui mezzi pesanti, 29 milioni passano dal Brennero, salgono a 40 milioni di tonnellate l'anno se si aggiungono le merci che viaggiano su ferrovia. Sulle conseguenze di questo possibile passo indietro nella storia da parte dell'Austria, a carico delle imprese di autotrasporto, abbiamo intervistato Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Questo ovviamente significa che ci saranno code lunghissime, ci saranno mezzi che saranno fermi collinati, autisti che perdono tempo, mezzi che costano, bisogna considerare che un mezzo, se fermo un'ora, costa dai 60 ai 100 euro. 2 ore diventa un aumento del nolo del trasporto del 10-15%, perciò noi dovremmo chiedere prezzi più alti per il trasferimento delle merci. Questo logicamente incide poi sui costi di produzione. Per l'Italia diventa difficile essere competitiva già a costi alti, e è un danno enorme per tutto il settore industriale e economico italiano. Ci sarebbero soluzioni intermedie, che ne so, controllare i mezzi prima dell'arrivo al Brennero, selezionarli, evitare insomma l'effetto imbuto? Beh, è difficile, noi ci aspettiamo che le forze dell'ordine austriache, se vogliono fare i controlli, li facciano in modo che i disagi siano il minimo possibile. Dipende logicamente tutto da come si organizzano, da quanti poliziotti mettono sul Brennero, allora si potrà anche fare prima i controlli, diventa anche difficile perché un clandestino può salire su un camion anche dopo un controllo che magari si fa a Bolzano, e questo è che gli austriaci vogliono impedire. Un altro passaggio delicato riguarda la ferrovia. L'Austria vuole i suoi agenti sui treni già in territorio italiano, altrimenti poco oltre il confine è pronta a istituire una sorta di checkpoint ferroviario con il blocco dei convogli. Staremo a vedere. Per il momento il collegamento da Piazza Walter a Bolzano termina qui. Simone, a te la linea. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Ferro, e ricordiamo agli ascoltatori, qualcuno ci ha scritto sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, qualcuno ci sta scrivendo su WhatsApp su che cosa succede agli altri punti di confine con l'Austria. Noi stiamo parlando molto del Brennero semplicemente perché è il punto di confine dal quale passano più merci e più persone in assoluto in direzione dell'Austria. Qualcuno ci chiede del Tarvisio, qualcuno ci chiede degli altri valichi. Ovviamente queste misure che l'Austria sta prendendo riguardano tutti quanti i valichi e non riguardano solamente il Brennero. Ci stiamo concentrando sul Brennero per i numeri anche che vi ha fatto e vi ha dato pochi istanti fa Andrea Ferro. E adesso passiamo a parlare di Confindustria, perché oggi Vincenzo Boccia ha presentato la squadra. Via libera del Consiglio Generale alla squadra che accompagnerà il neo presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel suo mandato di 4 anni. 107 i voti positivi su 157 votanti. Della squadra di presidenza fanno parte 6 vicepresidenti elettivi. A Maurizio Stirpe, la delega al lavoro e alle relazioni industriali, Giovanni Brugnoli, capitale umano, Giulio Pedrollo alla politica industriale. Confermate quindi Lisa Ferrarini per l'Europa, Licia Mattioli per l'internazionalizzazione, Antonella Mansi per l'organizzazione. A questi componenti si aggiungono i 3 vicepresidenti di diritto, Alberto Baban, presidente della piccola industria, Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori, e Stefan Pan, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali. Il presidente designato Boccia mantiene per sé la responsabilità su alcuni grandi capitoli strategici, quali il credito e la finanza per la crescita, l'energia e le reti di impresa. Farà capo direttamente alla presidenza la delega al centro studi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma. Come già vi dicevamo nei titoli, sono state aperte altre 2 procedure di infrazione per l'Italia, la prima sulla gestione delle scorie radioattive e la seconda sui limiti posti alla sperimentazione animale. Il programma nazionale italiano per la gestione delle scorie radioattive è stato inviato alla Commissione europea con 6 mesi di ritardo, invece che ad agosto 2015 a febbraio 2016. Per questo l'UE ha avviato una nuova procedura di infrazione contro il nostro paese, ma Bruxelles nutre dei dubbi anche sul testo del programma italiano, in cui, a quanto si apprende, mancano ancora la VAS, la valutazione ambientale strategica, le considerazioni ambientali richieste prima dell'attuazione del piano e la consultazione pubblica sui siti di stoccaggio. Tutti aspetti intorno ai quali, a quanto si apprende, l'Italia ancora pronta a fornire ulteriori chiarimenti. Un'altra procedura di infrazione da parte di Bruxelles, che suscita reazioni forti in larga parte dell'opinione pubblica, riguarda la legge italiana per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che secondo l'UE pone limitazioni eccessive al loro utilizzo, penalizzando i ricercatori italiani rispetto a quelli di altri stati membri. L'Italia è comunque al minimo storico quanto a procedure di infrazione europee. Grazie alle 6 chiusure previste dal pacchetto mensile infrazioni, l'ultima delle quali ha riguardato le buste biodegradabili, il conto delle messe in mora a carico dell'Italia è sceso da 83 a 80. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre tra un attimo per andare a sentire che cosa succede sui mercati. Nella seconda parte della trasmissione parleremo ancora di Europa, perché si è appena svolto un incontro tra il ministro Padoan e il commissario Dombrovskis, e poi parleremo del nuovo disco di Zucchero che viene presentato oggi. Abbiamo la nostra Marta Cagnola che sta seguendo questa presentazione e ci racconterà un po' che cosa contiene, e sentiremo anche un brano a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E i nostri titoli li apriamo con una notizia appena battuta dalle agenzie. È una nota di Silvio Berlusconi che forse mette fine alla telenovela di Guido Bertolaso. Con il dottor Guido Bertolaso, dice, abbiamo deciso di sostenere e fare nostra la candidatura di Alfio Marchini. Quindi Forza Italia sosterrà Alfio Marchini. Non è una scelta nuova, scrive Berlusconi. Marchini era stato la nostra prima opzione ed era caduta per i veti posti da un alleato della coalizione. Sarà Marchini dunque sostenuto da Forza Italia a Roma. Le altre notizie: sono stati arrestati 6 presunti jihadisti. Secondo gli inquirenti c'era anche chi progettava attentati in Italia. 2 di loro con i figli volevano andare in Siria o in Iraq a unirsi all'ISIS. Inizia oggi, ma le prove andranno avanti per tutto il mese, il concorso della scuola. 63.000 posti, ma i candidati sono 3 volte tanti. Voci di irregolarità, il ministero smentisce. Oggi l'incontro tra il ministro Alfano e l'omologo austriaco. Cresce la preoccupazione per la prospettata chiusura delle frontiere. Il Brennero come una nuova Idomeni? No, siamo pronti, ci dice il presidente della provincia di Bolzano. Aperte 2 procedure di infrazione per l'Italia, ve ne abbiamo appena parlato, la prima sulla gestione delle scorie radioattive, la seconda sui limiti posti alla sperimentazione animale. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, l'ultima notizia appena arrivata e che probabilmente era attesa è la decisione di Silvio Berlusconi e di Guido Bertolaso. Guido Bertolaso rinuncia alla corsa alla candidatura per diventare sindaco di Roma e decidono sia Bertolaso che Berlusconi di sostenere Alfio Marchini. In una nota Berlusconi dice: non è una scelta nuova, Marchini era stato la nostra prima opzione. E a proposito di Brennero, abbiamo un ascoltatore che ci chiede se i blocchi ai varchi di confine riguardano solamente l'Italia, riguarderanno tra l'altro, perché non sono stati ancora realizzati, riguarderanno solamente l'Italia. No, perché l'Austria ha deciso proprio nei giorni scorsi di bloccare anche il confine con l'Ungheria. Certamente è quello con l'Italia, quello più delicato dal punto di vista dei migranti. Continuiamo a parlare di Europa per l'incontro che c'è stato oggi tra il ministro dell'economia Piercarlo Padoan e Dombrovskis. Alessandra Schepisi per gli aggiornamenti. Sì, buongiorno Simone. Una visita di routine nell'ambito del semestre europeo, durante la quale il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ha lodato di fatto i profitti del nostro paese. L'Italia ha detto sopra la media europea per il rispetto delle raccomandazioni. Passi importanti per quanto riguarda le riforme sono stati fatti, anche se ancora ne restano da fare. L'oggi dunque, ma anche con una certa prudenza, la Commissione vede dei progressi ma nutre anche alcune preoccupazioni sui conti pubblici dell'Italia. Il deficit è una traiettoria in calo, certificato anche da Eurostat, detto Dombrovskis, ma ci sono alcune deviazioni sia sul percorso di riduzione del disavanzo strutturale sia sulla regola del debito. In ogni caso, a questo stadio ha aggiunto, è prematuro trarre conclusioni, ricordando che l'Unione Europea formalizzerà i suoi giudizi il mese prossimo, e tra poco il vicepresidente della Commissione Europea parteciperà all'audizione parlamentare congiunta con le commissioni di bilancio, lavoro esteri di Camera e Senato, e chiuderà quella giornata con un incontro con il governatore di Banca Italia. Visto a te, Simone. E ti ringrazio, grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Andiamo innanzitutto ad una notizia che arriva dalla Turchia, che è stata anche questa appena battuta dalle agenzie. Un tribunale di Istanbul ha condannato a 2 anni di carcere 2 giornalisti del quotidiano turco per offesa ai valori religiosi, istigazione all'odio, appunto, per delle vignette, per aver pubblicato nel gennaio 2015 le vignette di Charlie Hebdo dopo l'attacco alla rivista satirica. Nel nostro giro per l'Italia che facciamo di solito, vogliamo adesso andare a Vicenza per una vicenda che ci ha colpito. È una vicenda che arriva da un ospedale nel quale tra medici e infermieri era scattata una sorta di gara a chi infilava nelle vene dei pazienti arrivati al pronto soccorso la cannula più grossa. Se lo scrivevano su WhatsApp, era una gara e se la facevano su WhatsApp. Il punto e la cosa che ci ha colpito è il fatto che alla fine se la sono cavata con 2 sanzioni, che poi sono una censura scritta per un medico e un rimprovero scritto per un infermiere, e 6 archiviazioni. Abbiamo Vincenzo Riboni, che è il primario del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Dottor Riboni o professor Riboni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno. Allora, qua è una domanda classica, è così come l'abbiamo letta sui giornali o no? Non è proprio così. Questa gara, che per fortuna è rimasta solo sulle chat e di certo non si è compiuta e perciò non ha provocato, almeno così da come i soggetti interessati coinvolti, alcuna situazione di danno a pazienti, assolutamente. È stata una cosa che tra alcuni medici, anzi il medico in particolare e alcuni infermieri, per gioco così hanno ideato e pensato non tanto di mettere in atto, perché loro comunque hanno affermato che non c'è stata alcuna volontà di tradurre queste chiacchiere, meglio questo loro gioco, e un qualche cosa che certamente non trova giustificazione, perché non va neanche pensata una cosa del genere, e che comunque non c'è stato poi nessun riscontro né da parte di pazienti né da tantomeno di situazioni che possano aver creato. Ma quindi in sostanza è questa che lei ci sta dicendo. Allora, loro lavoravano come dovevano lavorare, cioè secondo gli standard. Poi però su WhatsApp si dicevano: oh, ma oggi di che dimensione l'ha infilata la cannula tu? Ecco, la cosa è letta giusta in questi termini, nel senso che loro nell'attività quotidiana, nell'attività lavorativa, si sono sempre comportati in termini corretti, almeno da quello che posso verificare, che ho verificato nel tempo, perché non sono di primo pelo, diciamo, in questa struttura questi soggetti. Come gioco tramite WhatsApp hanno ritenuto di così condividere l'esperienza, facciamo così piuttosto che chi ha la cannula più lunga, per così dire. E senta, ma la censura scritta solo e rimprovero scritto non è un po' poco, è solamente per 2 di loro? Perché questo chattare tra di loro è avvenuto durante l'attività di servizio, mentre gli altri non erano in attività, cioè si chattavano ma non erano in servizio. Per cui, così dichiarando tra l'altro che non c'era stata alcuna intenzione di creare danno al paziente, la questione si è risolta con l'archiviazione per coloro che non erano in servizio, perché il fatto non rilevante non ha avuto alcuna conseguenza documentata, comunque sia, e dall'altra parte invece i 2 che sono stati censura e richiamato, perché l'hanno fatto mentre erano in attività. Senta una cosa, dottore, c'è un ascoltatore che ce lo scrive, che è un punto abbastanza interessante. Come è stato possibile rintracciare che cosa si scrivevano costoro su WhatsApp? C'è stato uno di loro che ha fatto una denuncia? Che cosa è successo? Perché uno di loro a un certo momento, dopo pochi giorni, non c'è stato alla questione, a questo gioco, non l'ha accettato, si è ritirato perciò dal cerchio di WhatsApp e me ne ha parlato. E poi c'è anche la questione delle foto fatte in servizio, anche quello non è un granché bello, no? Ci scrive un altro ascoltatore. E foto relativamente... Alle cannule, no, non le hanno fatte le foto alle cannule? No, più che altro, no, foto alle cannule no, noi abbiamo riportato soltanto gli elementi scritti così in WhatsApp, ma non certo le foto sulle cannule, non, almeno, cioè così, non mi pare proprio... Va bene, la ringrazio, grazie Vincenzo Riboni, primario del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Lo ripetiamo, c'era questa specie di gara su WhatsApp, ci dice non ci sono state conseguenze, si è risolta, riguardava 8 persone, si è risolta con una censura scritta per un medico, un rimprovero scritto e 6 archiviazioni. Andiamo a sentire, qualcuno chiede chi ha vinto, su, siamo seri, qualcuno ci chiede su WhatsApp alla fine chi ha vinto, non lo sappiamo in tutta sincerità. Il traffico.